later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, pulcini al giorno, come ridere. Kappa e Drago si ricordano di un conto in sospeso. Kappa, scusa, ma Joao che fine ha fatto? Non lo so. Non avranno mica giustiziato, ci siamo dimenticati di lui. No, mancano ancora un paio di settimane, figurati. No. Allora si sarà nascosto bene da qualche parte. Forse nella cappella di San Gallo. Sfira! O forse tra la folla di pulcini appena nati. O forse è già morto. È morto. Come succede una quantità di pulcini ogni giorno. E adesso magari già nei mucchi comuni. Non sai cosa sono i mucchi comuni? Sono l'equivalente delle fosse comuni. Ma povero Joao. Però sono mucchi perché qui i morti prematuri non li seppelliscono, ma li buttano uno sopra l'altro fino a raggiungere un'altezza di 2,5 metri e poi caricano i mucchi su un camion destinazione Impanando e Marchetti, la multinazionale del petto di pollo e delle crocchette di purè di patate. Ma Joao era così piccolo, perfino la Impanando e Marchetti non avrebbe avuto pensieri su di lui. Vabbè, ma tu non hai idea, Kappa, di quello che succede alla Impanando e Marchetti, eh? Perché? Nemmeno io, però ho tanta immaginazione. Quindi che cosa succede alla Impanando e Marchetti secondo la tua immaginazione? Succede che i morti prematuri arrivano in massa e vengono gettati nel normalizzatore. Il normalizzatore? Un macchinario che, secondo la mia immaginazione, serve a rendere omogenea tutta la massa che arriva dalla fabbrica, che ricordiamo è composta da diversi individui a diversi stadi di crescita e di putrefazione. Buttati lì dentro, i vari Joao perdono le caratteristiche che li hanno resi individui e diventano la materia prima per la produzione del 50% del cosiddetto petto di pollo Impanando e Marchetti. L'altro 50% poi magari è pollo vero, hai capito? E una volta normalizzati? Una volta normalizzata la massa, si procede alla lavorazione della stessa, e cioè alla confezione a seconda delle esigenze di marketing. Per l'Asia cosce di pollo, per l'Europa petti di pollo, per l'Africa ossa di pollo. Ma come? Agli africani piacciono le ossa di pollo? No, ma possono permettersi giusto quelle. Ciao, sono Joao. È un appello da fare. Tra molto meno di un mese sarò presa e macellata insieme a tanti miei piccoli fratelli. Ma io sono diverso da loro, perché sono Joao. Quindi ti chiedo un piccolo aiuto. Partecipa anche tu alla campagna Save Joao. E poi, ho ancora una cosa. Io ho fame! Ho tanta fame! Ora l'etologo studia il loro sguardo perso, il veterinario cura il loro umore inverso. Erano uomini alti eppure belli, si ritrovarono per sempre ad essere polli. Così va il mondo così va. Chi va col pollo impara a razzolare. Scherza coi polli, ma lascia stare i polli. And so we say together, peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago e Kappa. Peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago e Kappa. La fabbrica di polli. Ma no, ancora, dai, ma no! pollo, dai, è possibile che non passa una notte senza sentirti urlare, imprecare? Per forza, un pollo in sbattimento, scusa. Per forza che lo sono in sbattimento. Vorrei vedere voi che se non lo sareste. E guardate, vi auguro di non finire mai nella vostra vita in sbattimento. Ecco, in sbattimento. Vedo che anche gli animali più resistenti al apprendimento, alla lunga, imparano. Vabbè, ma qual è la causa di tanto sbattimento? Sono qui su internet. Ma il collegamento va e viene. E non riesco a fare il mio colloquio settimanale con il medico online. Come il medico online? È il medico che mi sta curando lo sbattimento, E non è mica un medico in carne ed ossa, no. Quando lì allo studio, ma va. Cioè, io non l'ho mai visto. E lui lavora solo su internet. E per corrispondenza, tipo. Cioè, lui tiene i contatti con i pazienti, no? E via chat. E così risparmia sull'affitto e su tutto l'equipaggiamento dell'ambulatorio, no? Cioè, in pratica... Mica scemo, è un medico che non ha nemmeno lo stetoscopio. Lo stetoscopio no. Ma come ti visita? Con la webcam? Tu gli fai vedere, non so... Ma no! Ma mi cura lo sbattimento, no? È uno stress a cervelli. Mica deve misurarmi la pressione o mettermi... il termometro... sotto le piume. Vabbè, ho capito. Con te lui deve parlare, no? Dialogare. E questo si può fare anche in chat, no? Ma fammi capire, Polo, tu chatti con uno che magari non è nemmeno laureato e facendo così curi il tuo sbattimento. Allora, prima devo mettere tutte le cifre della mia carta di credito, no? E dove le metti? Nell'apposito modulo. Sì, ma stai calmo, perché non ti devi agitare. Ho capito. Poi devo scrivere una cifra, devo scrivere la cifra 180, no? Che non so cosa sia, però bisogna scrivere sempre quella, 180. Mai meno. Allora si apre una finestra di dialogo, no? Ecco, 180 si riferisce agli euro che ti costa la visita. Non dovrebbe essere... Ma no, così tanto? Scusa. Polo, ma scusa, ma chi te lo dice che poi dall'altra parte non ci sia un cialtrone qualunque che... Tu sempre a pensare male, però. Polo, si tratta di medicina, non di far due chiacchiere. E poi 180 euro a botta, insomma. Allora, intanto le ricette che mi manda funzionano benissimo. Sì. Anche via mail, Cioè, me le manda via mail. E qui le accettano in fabbrica. Sì. E quindi vuol dire che è un dottore vero, no? Sì, ma Polo, non ti conveniva provare una chat per cuori solitari dove magari trovavi una bella pollastrella che stava a assorbirsi tutti i tuoi problemi, tu ti sfogavi, lei si suicidava, il giorno dopo un'altra. Almeno lì il modulo, la carta di credito non servono. Ah no, ma io ho bisogno di assistenza medica, non di una fidanzata virtuale. Però insomma, dai. Poi appunto, il tuo medico non è altro che l'operatore sottopagato, CocoPro, di un call center telematico che cerca le risposte alle domande su Google e le spaccia come le sue conoscenze, no? E nel tuo caso dice semplicemente quello che pensa dei fatti tuoi, come potrei fare io. Questi fatti di esperienza, questi di Drago. Insomma, così. Sì, ma io questo non mica l'ho capito. No, Drago, ti sta dicendo che il medico online è un pacco. Un pacco. Ma no, ma perché è un pacco? È un pacco. Ma scusate, adesso siamo anche diventati amici, no? Lui mi ha chiesto anche come sono fatto. Sì. Mi chiede di me, del passato, mi ha chiesto di descrivermi. Sì. E poi mi ha chiesto anche se sono single, no? In pratica vuole episcopale con te. Ma chi? Il dottore? Già. Ma no! Perché voi dite che... Cosa? No, perché adesso che ci penso, però... Cioè, magari è vero, Cosa? Cioè, magari è un pervertito questo qui. Tu pensa sempre ai pervertiti quando pensi a internet e non sbagli, vai tranquillo. Allora no. No, perché io contro i pervertiti non ho niente. Uno psichiatra addirittura no, piuttosto preferisco, non lo so, la sua infermiera, o una poliziotta. Cosa, la poliziotta? Un insegnante. No, la supplente. Meglio la supplente. Che ne so, l'indiana dei Village People. Meglio quella lì. Era un indiano dei Infatti, Village People. Chi? Quello dei Village People era un indiano. Vabbè, era un uomo? Allora no, Che cosa succederà adesso? Le cure online manderanno in pensione l'obsoleta figura del medico curante? No, ma perché così? E le chat online sapranno fare meglio di 100 anni di psicanalisi? Ma no! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo serotoninico allestimento de... Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.